E allora, fra 2 minuti in diretta, lezioni universali di esistenza, maestro? Esistenza. Esistenza. I want to say, 'cause there's something between us anyway. I might not be the right one. It might not be the right time. But there's something about us I've got to do. Some kind of secret I will share with you. I need you more than anything in my life. I want you more than anything in my life. I'll miss you more than anyone in my life. I love you more than anyone in my life. Qual è il vostro senso? Nel senso, qual è il vostro dei 5 sensi il preferito? Buonasera. Eh sì, buonasera, entità all'ascolto. Siamo in diretta a Radio Wombat, lezioni universali di esistenza. Comincia oggi, un po' in ritardo, a onor del vero, questa nuova stagione. Inizia con questa puntata in diretta dopo le 2 repliche, gli epitomi delle scorse 2 puntate che sono sul sito. Mentre oggi, di nuovo, col maestro. Maestro, come va? Una nuova stagione. Se prima c'erano autunno, inverno, primavera ed estate, adesso ne arriveranno delle belle. Ne arriveranno delle straordinarie e noi saremo qui per raccontarvele. Radio Wombat, per contattarci potete farlo scrivendoci su direttawombat.vado.li oppure postawombat@insiberia.net. 13:59 AM, qua noi va tutto bene. Siamo al calduccio, cambia un po' il format di questa nuova in questa nuova stagione, cosa succederà? Dunque, sì. Noi trasmettiamo e riceviamo, ma voi dove cazzo siete? Sì, ce lo chiediamo spesso, dove cazzo siete? E state bene, soprattutto? Fatecelo sapere. Te, maestro, intanto stai bene? Io parteggio per il bene. E il bene parteggia per te. Molto bene, quindi cosa sta per succedere? Adesso mettiamo subito il riassunto di un paio di puntate fa, l'ultima che avevamo fatto col visiting professor di Agartha, parlavamo di... Sì, dal Dusa. Col Dusa, c'era un professore dal Dusa, parlavamo di Gustavo Adolfo Roll, ricapitoliamo un attimo cosa avevamo detto, dove ci eravamo lasciati. Allora, ci eravamo lasciati sull'analisi del, come dire, dell'attività magica, onirico, barra scientifica di questo questo Roll. Roll, nobile illustre personaggio. Nobile illustre che esercitava, se non sbaglio, a Torino. Non sbagli, mio caro maestro, non sbagli. Via Pellico, se non sbaglio, sì, io addirittura potrei giusto, andare addirittura giusto, più giusto. Nel preciso. Infatti adesso sentiremo un attimo di riepilogo della situazione. Dopodiché, maestro, ti interrogherò a tua sorpresa su argomenti che non conosci. È un po' questo il nuovo taglio della trasmissione. Ci saranno degli articoli, dei contributi. Mi fa piacere supporre che tu... cioè, mi fa piacere che tu supponga che... il fatto che io che ci sia qualcosa che io non so, oltre ai tempi verbali. È proprio quello che vorremmo verificare assieme, mio caro maestro, e questo è il tentativo di questa nuova puntata, stagione, metterti in difficoltà. Dopodiché un po' le nostre solite rubriche, vero? Cominceremo oggi con quella... Vabbè, ma via, un pezzo per volta, ci saranno delle sorprese. Intanto, mettiamo il riassunto... Un pezzo per volta, è così che vi uccideremo. Sì, no, non stasera però, lentamente. Professor da Agartha. Grazie, buonasera a lei professore, buonasera a tutti, sì, sono io, vengo da Agartha, ecco, non so se la conoscete. Si sente dall'accento un po', secondo sì, me. Sì, palesemente da Agartha, sì. Agartha è una città ampia che racchiude molti sogni, molte anime, soprattutto molta storia. Stasera principalmente ci occuperemo di una delle figure più magnetiche, più affascinanti che hanno interessato la storia del secolo scorso, in particolar modo della nostra penisola, ovvero Gustavo Adolfo Roll. Mi si sente? Sì, indiscutibilmente. Sì, Roll another one. Vorrei un attimo capire dove è nato? A Torino. Casa sua, via Silvio Pellico 31, noi organizziamo anche dei pellegrinaggi per chiunque volesse andare a pregare davanti al luogo dove il dottor Roll ha eseguito queste magnificenze astrali, diciamo. Mi iscriverò. Parlare di magia è un po' fuorviante, perché si torna sempre lì. Per il volgo è necessario usare la parola magia, perché era questo che in sostanza faceva Roll. Faceva delle magie, ma in realtà lui aveva un contatto con una spiritualità elevata. Le sue non erano magie, le sue erano la manifestazione dell'etere, dello spirito divino, che attraverso la sua figura si manifestava in quanto entità prorompente. È ovvio, e qui concorderete tutti con me, che il sistema copernicano è fallace. Certo, in tutte le sue ipotesi. Una carta che cambia seme o che cambia colore, carte che si trasmettono da un mazzo a un altro, carte che vengono poste a faccia all'insù nel mezzo di un mazzo e che scompaiono magicamente. Ma il dottor Roll tutto questo lo faceva in modo sincero. Le manifestazioni che Roll con le carte eseguiva erano

purtroppo questo mio potere non è trasferibile. No, però aspetta un attimo. Cazzo! Va bene, non funziona. Ci riprovo l'ultima volta, l'ultima volta. L'ultima volta. Vai, vai. E indiscutibilmente no. Via, via, via, via. Va bene, volevo soltanto dare la sigla, che non ce l'abbiamo, però l'avevamo preparata. Ci riprovo più tardi, perché avremo ancora un altro momento. Per un importante momento. Abbiamo da questa puntata in poi, maestro, una grande presenza. È quella dell'anagrammista Ciripeo. Sì, è l'anagrammista Giulio Ciripeo VII. Ah, ma certo, sì, sì, sì, sì, è un ex papa. Sì, un ex papa, l'anagrammista ex papa Giulio Ciripeo VII, che da oggi ci accompagna nelle puntate con la sua entità che non si presenzia se non con i suoi anagrammi che ci manda da chissà dove. Probabilmente da casa vi starete chiedendo come fa a essere un ex papa. Sì, anch'io stesso, sì. Allora, se vi state ponendo questa domanda e non trovate risposta, vuol dire che non avete ascoltato la prima stagione di questo programma, quindi correte ai ripari. Correte anche a casa a farlo subito. Correte ai ripari perché vi suggestionerà al punto giusto per potervi godere ciò che vi stiamo per dire, ovvero che, attenzione, l'anagramma, maestro, di Gustavo Adolfo Roll è, lo sai? No. No, certo, infatti è l'anagrammista che ce l'ha detto. L'anagrammista dice che è Rolla Fava da gusto. Sarebbe stato ancora più bello con una sigla che proveremo ad avere dopo per il secondo anagramma dell'anagrammista Ciripeo. Ma veniamo a noi, maestro, veniamo a noi. Allora, questo anagramma è una profezia, un consiglio, un ricatto forse? Forse, dovremmo chiederlo all'anagrammista, lo faremo. Abbiamo un canale privilegiato, potremo farlo negli intervalli musicali. D'altronde da ex papa qual è parla per enigmi. Sì, noi però saremo in grado di risolverli anche a seguito del tirocinio fatto con la prima stagione di questa esibita trasmissione. Certo, certo. Sempre all'altezza. Vedremo invece se lo sei tu, maestro. Pronto? Andiamo. Adesso ti invito a pensare a questo. Allora, primo argomento di questa nuova stagione per te è il treno scomparso che ha viaggiato indietro nel tempo per 400 anni. C'è una vecchia storia, caro maestro, su un treno scomparso. Scomparso. Probabile l'abbia scritta io. Senza lasciare traccia. Presumibilmente, mio caro maestro, la colossale macchina è riuscita a viaggiare nel tempo e nello spazio. Questa storia inizia il 14 giugno del 1911. D'altronde, piccola parentesi, una precisazione che è molto esatta, perché se viaggi solo nel tempo, ma non viaggi nello spazio, come infatti Einstein ci insegna, queste due entità sono strettamente interconnesse all'interno di una griglia che chiameremo spazio-tempo e che rappresenteremo con il lenzuolo del mio letto. Diciamo, questa cosa deve per forza stare insieme, in quanto che se io mi spostassi solo nel tempo, all'interno del pianeta, cioè di queste coordinate spazio-temporali, ma non modificassi lo spazio, io sia che vado avanti sia che vado all'indietro mi ritroverò in un punto dell'universo in cui non c'è più la Terra. Incredibile, maestro. Incredibile. Teniamolo a mente tutto questo. Teniamolo davvero a mente tutto questo. È molto importante per anche decifrare questa storia, che infatti inizia in un luogo e in un tempo. In un non luogo, forse. Forse sì, lo scopriremo assieme. Questa storia inizia ad ogni modo il 14 giugno del 1911. In quel giorno la compagnia ferroviaria Zanetti, e qua la faccio io una parentesi, maestro, ho indagato, esisteva, è tutto giusto. Argentina? No, Italia, nord-ovest. Incredibile. Programmava il viaggio inaugurale di un treno di lusso destinato all'alta borghesia italiana, per l'appunto. Il percorso previsto si snodava in un paesaggio suggestivo e attraversava la galleria più lunga realizzata in Europa fino a quel momento, situata nelle campagne, montagne lombarde. Erano 10 metri di galleria. Tipo, però era, sembrava una cosa, infatti dopo vedrai. La storia comunque racconta che nelle prime ore del viaggio tutto trascorreva in perfetta normalità, in effetti i passeggeri facoltosi hanno addirittura elogiato il servizio ed erano contenti dell'esperienza, risulta da chissà quali cronache. Beh, chi bastardi. Ma le cose si sono fatte alquanto strane, attenzione, quando stavano per attraversare quel tunnel maledetto attraverso le montagne. Il treno è entrato nel tunnel, ma non ne è infatti mai uscito. Dall'altra parte una folla di curiosi è rimasta delusa nel vedere la lussuosa macchina scomparire nell'oscurità. Dopo una lunga attesa, i giornali hanno iniziato a ipotizzare vari scenari. Si diceva che il treno avesse subito un guasto oppure un incidente che gli impedisse di proseguire. Le autorità, caro maestro, hanno organizzato a quel punto una squadra di ricerca. Uomini hanno percorso il tunnel dall'inizio alla fine, dopo chissà quanto cazzo di tempo, senza trovare una sola traccia del treno, dei passeggeri o dell'equipaggio. I testimoni hanno affermato che il treno non ha mai lasciato quel tunnel. Tuttavia l'autorità ha insistito nel dire che non c'era modo che il treno scomparisse semplicemente nella montagna, ed ecco che a questo punto la storia si fa ancora più strana. Dopo una seconda ricerca, l'equipaggio ha individuato due passeggeri storditi che vagavano all'interno del tunnel con delle lievi ferite. Queste persone hanno spiegato di essere saltate giù dal treno in preda al panico causato da una serie di eventi inspiegabili. Infatti pare che abbiano notato che prima di entrare nel tunnel ci fosse stato un forte ronzio. Poi una fitta nebbia... Forse un rollio? Forse. Teniamo a mente anche questo. Poi una fitta nebbia ha inghiottito il treno. Ecco, e questi eventi hanno scatenato il panico nei passeggeri che hanno deciso di saltare dal treno, che comunque è strano se ci pensano, se è un ronzio, un po' di nebbia e sono lanciati giù. Comunque hanno fatto questa cosa. A me viene da pensare che quel treno non andasse così veloce, però non lo so. Ecco le speculazioni finali con cui si conclude questa storia. Buono comunque, maestro, giusto tenere a mente il punto di vista scientifico in tutto questo. Quelli infatti che si sono imbattuti in questa storia hanno provato a spiegare varie cose, ma connesso varie storie, a cominciare da quella che si è svolta nel 1845, quando un medico in Messico ha curato un gruppo di 104 italiani vestiti con abiti strani. Erano tutti isterici, sostenevano di essere di Roma e di essere arrivati in un treno. Apparentemente, peraltro, una di queste persone, maestro, portava un pacchetto di sigarette con la data 1907. Okay. Maestro, ne abbiamo ancora due. Un rapporto del 1955 che descrive il transito di un treno sulle ferrovie Zavalichi in Ucraina. Un operaio ha sottolineato che il treno è apparso dal nulla e ha investito alcuni polli, maestro. E ancora, infine, nel 1955 gli abitanti di Pune, in India, che videro un treno pieno di passeggeri in abiti antichi. Nel 1991 in realtà è apparso ancora a Poltava, un'altra città in Ucraina. Mio caro maestro, adesso tutto quello che ti voglio chiedere è questo. È possibile, o caro maestro, che un treno possa scomparire per emergere in tempi e luoghi diversi nello spazio e nel tempo? E ancora, maestro, i passeggeri sono forse ancora intrappolati in un loop temporale, completamente ignari del corso della nostra realtà, vivendo ai confini del tempo e dello spazio? Allora, non è solo possibile, ma è augurabile. Per chi? Per tutti noi. Perché? Soprattutto per chi è nel treno. Sì? Certo. Immagina vivere quindi all'interno di questo loop spazio-temporale, che poi loop spazio-temporale l'hai detto te, perché a me mi sono sorte tutta una serie di domande. Sì, l'ho detto io, è vero. Durante la tua narrazione, puntualissima, però nel senso mi veniva da pensare, wormhole? Ah. Rapimento alieno? Perché saltare a conclusioni affrettate se possiamo saltare a conclusioni ancora più affrettate? Ma il fatto che questo treno sia apparso in spazi e luoghi diversi anche nel futuro, nonché nel passato, in India, in Ucraina, nel 91, nel 1845, che ci fossero passeggeri di Roma nonostante il treno fosse nel nord, che ci fosse questo pacchetto di sigarette del 1907... Ora non mi sembra il caso di essere, come dire, anche in qualche modo... Cioè, magari si è fermato a Roma, no? Saliti questi? No, perché te l'ho detto, ho controllato, queste ferrovie Zanetti sono soltanto congiungevano il nord-ovest al nord-est dell'Italia. Il nord-ovest al nord-est? Quindi il fatto che fossero di Roma i passeggeri è effettivamente piuttosto strano. Perché non è l'alta borghesia del nord, capito? Questo sì è piuttosto strano, ma magari un altro treno a cui è successa una roba analoga. Una roba analoga, potrebbe effettivamente essere. Infatti poi nel 1907 comunque ci sta che te le sei sgranate le sigarette, è arrivato nel 1911, cioè 4 anni. Va bene maestro, quindi un ultimo punto su questo aspetto prima di darti il secondo tema di oggi, vuoi darlo? Sul treno misterioso, cioè ci hai detto che è augurabile che effettivamente siano effettivamente intrappolati in qualche cosa che è probabilmente ancora più grande di tutto ciò che io ho supposto. Sì, perché tipo... dopo il primo mezzo secolo di terrore probabilmente, arriva il momento di studiare, di analizzare la situazione all'interno della quale ipoteticamente si possono trovare queste persone. E quale punto di vista migliore se non l'interno stesso di quel vagone? Ora, qualcuno si è lanciato. Due uomini. Ecco, allora forse qualcuno ha scelto di non lanciarsi. A tutti gli altri, direi. Bene. Una suggestione... È in loro che confidiamo. Ah. Non lanciatevi dai treni. No, allora maestro, secondo articolo io direi ne facciamo due. Ne avevo preparati tre, ma poi vediamo. Se abbiamo tempo lo facciamo alla fine il terzo. Per questa volta ne facciamo due, perché il primo ha preso piuttosto tempo. Il secondo cambio la base per farlo. Bella questa, eh? Questa è una bella base. Rocketman. Rocketman, per parlare di grandi uomini, uomini missili. Per esempio, un uomo missile era sicuramente l'uomo per cui, insomma, maestro, sappiamo che provi una grande simpatia. Bob Lazar. Anche. Non è quello di cui vogliamo parlare Elton oggi. Elton John. Anche. Tutti, maestro, provi simpatia, ma non sono loro. In realtà il terzo lo indovineresti e quindi è il mio momento. Ti faccio la citazione, pronto? Se solo tu sapessi la magnificenza del 3, del 6 e del 9, potresti avere la chiave dell'universo. Nikola Tesla. Vorrei fare una correzione. Sì, maestro, grazie. Ha saltato il numero più importante di tutti. Sì, correggi Tesla, per favore. Il 7. Partiamo da qua allora, maestro. Partiamo dal 7. Perché? Non c'è modo di fare altrimenti. Dici di più. Non a caso, fra l'altro, caro maestro, a proposito di 7, Tesla ha avuto 700 brevetti nella sua vita. Esattamente 700. Che sia un caso? Assolutamente no. No, ne credo nemmeno io, infatti. Dici del 7. Il 7 è un numero che dire magico sarebbe un eufemismo. È il numero che è alla base di qualsiasi scambio tra la realtà e tutto quello che è il, non so, l'antirealtà. Molto bene, maestro. Tra molto il bene. Cielo e la terra, ecco, lo dirò così. Un numero divino, potremmo dire. Un numero divino che ha un grande ruolo anche sulla terra. Sì, sì, sì. E non è un caso che, insomma, i colori dell'arcobaleno siano 7, non è un caso che le note siano 7, non è un caso che questo numero appaia più e più volte all'interno della simbologia e del esoterismo. Caro maestro, io ti voglio dire anche questa cosa, che infatti è così. Però parliamo del 3, del 6 e del 9. Vabbè. Parliamo di questi numeri di Tesla. Che sono altrettanto magici. Sì, comunque, ma infatti. Anche ma perché potremmo... il numero 3 sicuramente più 9, è. Meno il... 6. Esatto. E sicuramente il 3 è il più magico dopo il 7. Su questo non c'è dubbio. Vero? Sì. E infatti io ti racconterò che Nikola Tesla usava camere che erano di numeri. Cioè usava soltanto camere di numeri divisibili per 3. Cosa vuol dire camere? Cioè, quando andava in un albergo, viaggiavano, okay. Andava in un albergo e stava in camere che avevano numeri di stanza, soltanto potevano essere multipli o divisibili. Ok, il numero della stanza è incredibile. Cercava la tabellina del 3. Questa era una mania, una non solo, ogni volta che si sedeva a tavola, Tesla aveva 18 tovaglioli, non uno di più, non uno di meno. Mi ricorda un po' Beethoven. E ti dirò l'ultima, che camminava 3 volte attorno al blocco di un edificio prima di entrarvi, okay, qualunque fosse la sua grandezza. Prima di entrare in un luogo faceva 3 volte il giro. Mi ricordava, dicevo, un po' Beethoven, perché lui ogni mattina si faceva un caffè con 60 chicchi di caffè, non più e non meno. Incredibile, maestro. E dici una tua mania numerica, per favore, oltre alla passione per il 7. Una mania numerica? Una fra le molte che avrai, scegliela, lo capisco, è difficile selezionarne una, insomma. Allora, non... Se... Sei oltre ci ho pensato davvero, ma credo di non averne. Ma maestro, quindi io voglio un commento su questo. Allora, se solo tu sapessi la magnificenza del 3, del 6 e del 9, capiresti la chiave per l'universo. La tua risposta è: se solo tu sapessi la magnificenza del 7, caro Tesla, ne sapresti ancora di più di quanto non hai detto. L'avresti la chiave dell'universo, giusto, nella tasca. Perfetto, molto bene, molto bene. Al suo posto anche Tesla. Io vorrei dire a Tesla questa cosa: una volta che c'hai la chiave dell'universo, che cazzo fai? Perché, cioè, ci chiudi tutti dentro, e potrebbe essere un modo di affrontare la questione, ma di certo non esci. Non esci, maestro, non esci. Quindi noi adesso mettiamo un pezzaccio, torniamo, vediamo a seconda del tempo, o con l'ultimo dei 3 articoli pronti, oppure con la tua meravigliosa rubrica. Vorrei solo dire un'ultima cosa. In questo universo siete voi che siete chiusi con me dentro, e non io con voi. E questo è un augurio, una minaccia... Un ricatto. Un ricatto, per l'esattezza, esatto, certo. erano i Deep Purple. Lo erano, mio caro maestro, erano i Deep Purple. Molto bene, allora io lo so che fremi per la tua rubrica, ma invece no, ho deciso che prima è il momento ancora del terzo e ultimo articolo sul quale ti voglio suggestionare oggi per i nostri ascoltatori, che invito anche a mandare domande per il maestro a postawombat@insiberia.net, potete farlo. Despotizzateci. Fatelo. Per il momento, maestro, invece, ora che ho il trono, ti interrogo sulla profezia di Raimondo. Raimondo il cane giocondo? No, e nemmeno Edmundo l'ex calciatore della Fiorentina, nessuno di loro due. Questa storia, caro maestro, iniziò nel lontano 1984, quando Raimondo, un uomo semplice e curioso, ebbe un sogno vivido in cui incontrò un uomo alto e affascinante di nome Erluiaca. Questo enigmatico visitatore Sì. Erluiaca. No, ho sbagliato, aspetta. Erluiaca. Aspetta, è difficile. Aspetta. Era di Roma. Erluiaca. C'era. Aspetta, forse sì. Erulaica, non viene così. Erulaica è famoso, sì, vero. Allora, sì, certo, infatti. Questo enigmatico visitatore proveniva dalla costellazione di Orione e dichiarò di provenire appunto da un mondo chiamato... Ah, vedi come sono pratico delle lingue aliene. L'ho notato, l'hai riconosciuto subito, bravo maestro. Grazie. Tra il romanesco poi e l'orionese. Dai, c'è una distanza. Il suo mondo per l'esattezza era chiamato Nephilim ed era 20 volte più grande della Terra. Questo essere aveva il compito proprio di trasmettere un grande messaggio all'umanità, che fece per la voce di Raimondo, apparendogli in sogno. Infatti Erulaica chiese a Raimondo di costruire un tempio per lui a forma di piramide. Infatti nel mondo esiste. Comunque esiste, rimane ancora Raimondo il nome tra i due più assurdo. Raimondo, me lo immagino un po' così, anche sonoro. Non so te, ma... L'uomo gli spiegò, cioè l'uomo che è apparso nel sogno a Raimondo, sì, gli spiegò che la piramide rappresentava la sua fede e che doveva essere fatta verso l'alto, simboleggiando l'origine delle cose buone, non quindi verso il basso tipo storta, verso a diritto, proprio verso l'alto. Nonostante l'apparizione avesse avvertito peraltro Raimondo delle possibili critiche e delle sfide che egli avrebbe dovuto affrontare in questa sua impresa, questo contadino messicano tenace e pio... Ti scherniranno. Un forte sentì richiamo interiore che lo portò ad adempiere alla richiesta dell'alieno. Incredibile. Sì, davvero, anche perché incredibile anche era la determinazione e la perseveranza con cui Raimondo principiò nella costruzione della piramide di pietra. Fu un compito non facile, caro maestro, soprattutto per un uomo che aveva studiato per allora fino alla sesta elementare. E se te lo stai chiedendo, sì, mesi così arriva fino alla sesta elementare, okay. Non per cazzo, fanno come voglio. Va bene. Tuttavia Raimondo sembrava guidato da questa forza interiore, convinto che una conoscenza segreta fosse stata inserita proprio nel suo DNA, pronta ad emergere quando necessario. Ci siamo quasi, maestro, al penultimo capitolo questo. Mentre infatti la piramide prendeva forma, Raimondo raccontava a chiunque fosse interessato il messaggio che gli era stato trasmesso da Erulaica. L'alieno infatti esortò Raimondo a far comprendere all'umanità le terribili conseguenze delle proprie azioni sulla Terra. Secondo l'essere extraterrestre, infatti, la Terra era la copia di un altro mondo simile, maestro, ma la sua popolazione aveva scelto una strada sbagliata, utilizzando la conoscenza per creare armi distruttive. Ciò portò a una devastante guerra in cui tutto si surriscaldò e il pianeta fu avvolto in una nebbia di morte. Ed eccoci quindi con la storia di Raimondo e la sua piramide di pietra, che suscitò l'interesse di molte persone che cercarono di comprendere questo significato profondo. Ecco. La costruzione infatti fu un atto di fede e di coraggio da parte di Raimondo, che portò avanti nonostante tutti gli scherni che ricevette. E alla fine però, col passare del tempo, questo contadino messicano divenne, quale ancora oggi effettivamente, un punto di riferimento massimo per tutti coloro che cercano risposte e speranza per un futuro luminoso per gli esseri della Terra. Quindi maestro, io ti chiedo, qual è la conclusione di questa meravigliosa storia? Cioè, Allora, prendiamola dove vuoi. Sì. Io ho alcune domande. Sì. Su, innanzitutto, sembra legittimo. Raimundo, tutte queste comunicazioni che ha avuto con queste entità le ha avute in sogno? In sogno, sì. Precisamente con una Erulaica. Con Erulaica. Bene. Ora, cosa rappresenta Erulaica per Raimundo? Una entità aliena che gli sta comunicando? Sì. Il destino degli esseri umani, e anzi gli sta dicendo: guardate, forse è meglio se fate in quest'altro modo per scansarvi la vostra quasi sicura fine. Esattamente questo sostiene Raimundo, anche se è un po' mal espresso dalle mie fonti autorevoli. Va bene, allora devo parlare con Erulaica. Lo farai in questi prossimi giorni? E notate la differenza di quanto io questa parola riesco a pronunciarla così velocemente, certo. Differenza del mio collega, scusate, che invece è così terrestre. Esatto. Provincialmente terrestre. Noi provinciali dell'Orsa Minore, come dicevi una volta, mio caro maestro. Sì, in quell'altra incarnazione. Sì. Molto bene, adesso cambio base e riprendiamo da dove avevamo lasciato la più bella rubrica di questa bellissima trasmissione, che era quella sulle razze aliene. Mio caro maestro, non le avevamo finite, quindi via, sigla. Anche perché non finiscono mai. Non finiscono mai, avanti. Sigla. Nobile sigla. Non finiscono mai e ne abbiamo da raccontare molte. Oggi parleremo di una in particolare. Sì, oggi parliamo dei nordici. Ora, a parte questo nome infame che sembra strizzare l'occhio a più di un partito, ma non è questo davvero l'intento, in quanto il nome nordici deriva effettivamente dal fatto che, da un punto di vista delle sembianze, dell'aspetto fisico, e quindi siamo già a fare un identikit della razza, sì. Assomigliano effettivamente a degli svedesi, praticamente, per capirci. Gente del nord Europa, nordici in questo senso qui. Non solo da un punto di vista dei lineamenti, quindi un po' più sottili, con questi volti un po' più allungati, più alti effettivamente di statura, tendenzialmente biondi, tendenzialmente con gli occhi azzurri, come potremmo immaginarci stereotipicamente un nordico del nord Europa, perché poi sappiamo bene che non è che sono tutti così, ovviamente, per fortuna. Non nel senso che non mi piace il biotipo biondo, ma nel senso che viva la biodiversità, in quel senso lì. Io vorrei soffermarmi anche sul fatto che questo tipo di questa tipologia di alieni effettivamente ha, come dire, un maggior successo tra gli avvistamenti del Nord Europa e del Nord America. Ora, questo è un caso? Coincidenze? Io non credo. Nel senso che qualcuno ha parlato del fatto che vadano un po' a giocare con l'immaginario di un certo tipo di substrato culturale, anche in questo senso qui. Quindi dice: il maggior numero di avvistamenti di questa specie avviene, per esempio, nel Regno Unito, in quanto questo biotipo estetico è un po' anche l'ideale, forse, di bello che c'è in quel luogo, in quella cultura. Ma queste, voglio dire, sono elucubrazioni che lasciamo ai sociologi. A noi ci interessa entrare in contatto con loro e scambiare beni di prima necessità. Giusto. E quindi, come facciamo a riconoscerli? Tutto rotto. Quali sono, per esempio, i velivoli che utilizzano principalmente i nordici? In realtà, anche da questo punto di vista, è stata analizzata una grandissima varietà. Quindi aspettatevi di tutto, da una Cadillac a un piatto rotante nell'universo. E da questo punto di vista dobbiamo anche considerare una cosa, che magari quelli un po' più bassi tra loro, forse, che non superano i 2 metri, possono anche facilmente confondersi con i locals. Ma io maestro, non sto capendo bene, ma sono umanoidi. Prendono le sembianze degli No, hanno proprio quelle sembianze. Ah. Sono umanoidi in tutto e per tutto, sono svedesi tranne forse che per l'accento e le abitudini alimentari un po' preoccupanti. Maestro, ma la loro origine qual è? Ti ringrazio di aver fatto questa domanda. Vengono dalle Pleiadi. Ah. Dalla costellazione del Toro. Maestro, posso fare ancora domande? Certo, però vorrei prima fare una piccola parentesi, sì, se mi è possibile, sulle Pleiadi. Avete tutti presente questo ammasso stellare globulare che c'è nel cielo, che alcuni dicono sia un ammasso di stelle, ma in realtà è probabilmente un ammasso di stelle, galassie e ammassi di galassie che brillano a differente luminosità per a seconda, diciamo, anche della distanza a cui sono dalla Terra. Però che formano in prospettiva, quindi, questo ammasso bellissimo, le Pleiadi le abbiamo chiamate, le abbiamo dato anche un significato mitologico stupendo, ma gli indiani d'America non le chiamavano Pleiadi. Ah. E quando dovevano decidere, arrivata a una certa età, quale membro della comunità sarebbe stato cacciatore o no, gli facevano guardare le Pleiadi. E dovevano dire un numero di stelle che vedevano. Il saggio della comunità, della tribù, sapeva qual era il numero giusto che avrebbero dovuto dire, da cui in su sarebbero diventati cacciatori. Tu, maestro, ce lo puoi rivelare questo numero? Hai detto tanti numeri prima. È uno di quelli. Bene, maestro. Maestro, una domanda a questo punto. È un popolo che da molto abita la Terra, quello dei nordici. Beh, sicuramente la visita da tanto tempo. O l'abita. Il fatto che probabilmente l'abita è più che plausibile, in quanto, come avevo sottolineato anche prima, questi nordici si confondono bene tra gli autoctoni terrestri, no? Possono passare appunto per esseri umani in tutto e per tutto, probabilmente europei, probabilmente nordamericani, d'accordo, ma voglio dire anche australiani, ma anche brasiliani, ma sudafricani, ma anche sudafricani, infatti, vai a dire. Potrebbe essere di qualunque, sì. Però insomma, con questo marcato aspetto tendente al biondo. Maestro, ma qual è la loro agenda nei nostri confronti o nei confronti del nostro pianeta, insomma? I più dicono che la loro agenda sia quella di guida e protezione. Ah. Ma se facciamo riferimento a uno dei primi casi di abduction, che comprendeva un incontro ravvicinato del quinto tipo, quindi sesso, in questo caso il soggetto addotto e poi sottoposto a questa pratica era appunto un contadino brasiliano negli anni 60 del Novecento. Cioè, ne avevamo parlato già anche in qualche altra puntata. Forse l'abbiamo accennato. Ecco, in questo caso il biotipo associato ai rapitori è quello del nordico. Se non che però l'essere con cui effettivamente ha avuto un rapporto sessuale pareva essere un nordico ibridato con un grigio. Wow. Ecco, e questa dinamica appare più volte. Cioè, nordici che rapiscono esseri umani e provano a, come dire, ibridarli con questi nordici / grigi. E come dire, le testimonianze, nel senso, sono molte di questa tipologia qui. Maestro, direi giunto il momento della domanda. Curiosità sui nordici. Come sempre, maestro. Prediligono i climi caldi. Al contrario di quello che ha scoppiettato la radio. Prediligono i climi caldi. Sì. Al contrario di quello che si potrebbe immaginare. E allora l'altra domanda che subito alla precedente consegue: voto ai nordici? Beh, sicuramente non gli possiamo dare meno di 8. Voto alto ai nordici, Sì, in quanto la loro agenda è piuttosto, appunto dicevamo, elevata alla guida e protezione, nonché ascesa a nuove dimensioni dell'umanità. Loro non vedono l'ora che noi facciamo questo percorso di ascesa. Che noi facessimo questo percorso di ascesa, scusate per i verbi, e che andiamo, insomma, che andassimo verso l'alto. Ma è auspicabile un rapimento del quinto tipo da parte di un nordico per un essere umano? Così, en passant, chiedo. Io che penso, ricordiamo, è quello del rapporto sessuale. Io penso che non sia mai auspicabile un rapimento in questo senso. Poi, come dire, se attorniato e, come dire, contornato da qualche moina e qualche bacetto, si può stare, certo. Magari scende meglio, non lo so. E via. Va bene, allora è il momento giusto per annunciare che stiamo per mettere l'ultimo pezzaccio. Ci risentiamo fra pochissimo per i saluti e poi ci rivediamo fra 2 settimane, perché questa trasmissione inizia ad andare in onda non più il primo e terzo mercoledì o il secondo e il quarto, a seconda di quando si era scelto durante l'anno scorso, ma semplicemente uno ogni 2. Però tratteniamoci un attimo ancora prima, per favore. Perché questa trasmissione ora va a fuoco. Quindi non tratteniamoci più. Woke up this morning with light in my eyes, and then realized it was still dark outside. It was a light coming down from the sky. I don't know who or why. Must be those strangers that come every night. Allora, il maestro ha detto che non dobbiamo fare i saluti dopo, quindi eccoli adesso. Saluti all'inglese, perché abbiamo parlato di nordici. Morning, I was feeling quite weird. Had flies in my beard, my toothpaste was smeared. Over my window, they'd written my name. Said, so long, we'll see you again. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman. Won't you please take me along for a ride? Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Roger, we got it, we've marked it.